Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva antispecista, che non privilegi, come accade abitualmente, una sola specie su tutte le altre, cioè la specie umana. Per questa redazione tutti i viventi sono degni di considerazione e di rispetto. In questa puntata, che è la numero 630, parleremo di trasmissioni televisive, parleremo del 70° anniversario della nascita del cavallo campione Ribot, parleremo di sussidi all'agricoltura, partiremo poi da un fatto di cronaca relativo alla questione degli esperimenti sugli animali per presentare un libro legato alla storia del movimento contro la vivisezione. E chiuderemo la puntata con un aggiornamento sulla questione dei mufloni dell'Isola del Giglio. Cucina e musica, quindi, le questioni più piacevoli di questa puntata saranno curate da Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. È andata in onda qualche sera fa la nota trasmissione televisiva di Rai 3 Presa Diretta una puntata intitolata Amore Bestiale, che il giornalista Iacona ha voluto dedicare agli animali domestici, in particolare ai cani e alle molte criticità e storture del rapporto uomo-cane in una società che, come sappiamo, è fortemente succube del mercato e delle sue proposte finalizzate al profitto. Si parlava del traffico di cuccioli dall'est Europa, ma anche delle saune per cani, degli asili per cani, della pet therapy, di come nelle società occidentali stiamo vivendo il lutto per la perdita di un animale domestico. E diciamolo, la trasmissione si è un po' crogiolata in questi eccessi, come il cibo gourmet per cani, i servizi di toilettatura di lusso e altre stravaganti trovate che negli ultimi anni hanno fatto volare l'economia degli animali domestici, un comparto che, come è stato sottolineato nel servizio, cresce più del PIL. La trasmissione, forse ispirata alle parole del Papa, che ha sostenuto che molte persone preferiscono oggi avere un animale domestico invece di un figlio, è stata oggetto di polemiche. L'etologo Roberto Marchesini, padre dell'approccio cognitivo zooantropologico e fondatore della scuola per educatori cinofili SIWA, ha rilasciato una lunga intervista molto critica verso la trasmissione che potrete trovare digitando Presa Diretta Marchesini su kodami.it. Ma quello che ci preme in questa sede sottolineare è che anche in questa trasmissione, che trova molto seguito, è stato affrontato il delicato e controverso tema dei cani brachicefali, un tema che fino a poco tempo fa era un totale tabù. Qualche puntata fa noi avevamo parlato della sentenza storica che in Norvegia ha appena vietato l'allevamento di due razze di cani brachicefali, cioè i cani con il muso molto schiacciato, il Cavalier King Charles Spaniel e il Bulldog inglese. È stato vietato l'allevamento di queste due razze perché questi cani sono stati definiti intrinsecamente sofferenti, con un deficit congenito o vulnerabili geneticamente per patologie severe. Si è scalfito quindi il muro di gomma, quel blocco compatto di compiacenza, di indulgenza che c'è nella società verso la selezione delle razze canine. Finalmente si parla apertamente delle razze come di un problema, ed era l'ora. Come già abbiamo affermato, il modo più efficace per soccorrere questi animali non è curarli per le patologie dalle quali sono afflitti, cioè non solo quello, ma soprattutto renderli non più interessanti per il mercato, prodotti quindi non più desiderati, perché alla fine di questo si tratta, di prodotti che vengono desiderati e che quindi vengono sfornati letteralmente dagli allevamenti per le richieste che ci sono nel mercato. Quindi se amate gli animali dovete dimostrarlo. Se vi state chiedendo cosa abbiamo contro le razze, perché queste dovrebbero essere un problema, vi informiamo che nella home page del nostro blog restiamoanimali.it potete trovare il link di una miniserie di interventi del veterinario Massimo Raviola contro la selezione delle razze animali. Potrete anche acquistare il libro di Massimo Raviola, Che razza di bastardo, edizioni L'età dell'acquario, un libro che affronta l'argomento in modo molto approfondito. Fine settimana del 26-27 febbraio 2022 a Pisa, presso l'ippodromo di San Rossore, sono previsti eventi straordinari per celebrare il 70° anniversario della nascita di Ribot, il puro sangue allevato in Italia che fu protagonista di grandi imprese sportive ippiche sulle piste di Francia e Inghilterra. Sabato 26 l'amministrazione comunale pisana ha organizzato un incontro pubblico nel quale si ricorderà Ribot con testimonianze e filmati d'epoca, mentre domenica, quindi il Ribot Day, è stata organizzata una corsa tra i più promettenti giovani fantini d'Europa e la proiezione di filmati d'epoca. Un dispiegamento quindi di energie organizzative istituzionali per ricordare il cavallo del secolo. Queste sono le parole del sindaco di Pisa e il suo ruolo sociale, culturale ed economico. Ribot, il cavallo che concluse la sua carriera agonistica dopo 16 corse da imbattuto durante la sua carriera, ha sempre trascorso lo svernamento, cioè i mesi da novembre a febbraio, nelle scuderie pisana, e la sua notorietà era tale che il suo carro di trasporto veniva preceduto dalla polizia stradale proprio per proteggere questo prezioso cavallo. Non sono mancate le critiche a questa celebrazione, le più autorevoli ci sembrano essere state quelle del presidente dell'associazione Italian Horse Protection, Sonny Richichi, che ha denunciato l'ipocrisia di chi celebra un cavallo dopo averlo sfruttato unicamente a scopo commerciale e di profitto. Gli eventi promossi dal comune di Pisa per celebrare Ribot sono costituiti su una retorica ipocrita, sono queste le parole di Richichi. Solo così si può definire la celebrazione dell'ippica e la definizione di grande campione per un cavallo che in realtà è stato costretto per tutta la vita ad allenarsi, a viaggiare e a fare gare in continuazione. Tutte cose che un animale, se potesse scegliere, sceglierebbe di non fare. Italian Horse Protection è un'associazione toscana che si occupa di custodire cavalli maltrattati oggetto di sequestri giudiziari e segue l'ippica in modo critico, denunciandone il vero contenuto e il vero obiettivo, cioè quello di sfruttare animali imponendogli l'uso di redini, imboccature coercitive e stili di vita che nulla hanno a che fare con la loro etologia a puro scopo commerciale. Two, one, two, three, four. scorsa settimana si è diffuso lo scontento, in alcuni casi anche una certa rabbia scomposta, tra soggetti come l'Unione Italiana Vini e Coldiretti. Questo perché è stata diffusa una notizia di livello comunitario che non è stata presa molto bene. Il vino, le carni rosse e le carni lavorate insaccate subiranno delle penalità nell'accesso ai fondi europei destinati alla promozione dei prodotti agricoli. In sostanza, quegli alimenti rischiano di non venire più sostenuti da quei fiumi di denaro pubblico che hanno consentito ai loro rispettivi settori di crescere in modo abnorme. D'ora in avanti i produttori se la dovranno vedere con il mercato tout court, affidandosi quindi alla mano invisibile che cerca l'equilibrio tra richiesta e offerta. Ma perché questi prodotti non rispondono più ai criteri necessari per accedere all'ambitissimo tesoretto di 176 milioni di euro che l'Europa mette a disposizione per sostenere il settore agroalimentare? Perché esistono alcuni documenti di indirizzo strategico di livello comunitario come il Farm to Fork e il piano comunitario Beating Cancer, è un piano per contrastare il proliferare dei tumori, piani che incoraggiano una dieta più vegetale, con meno carni rosse e lavorate e altri alimenti legati ai rischi di cancro, come per esempio le bevande alcoliche. Questo per tutelare la salute pubblica dei cittadini europei. C'è poco quindi da girarci intorno. Il vino, come gli altri alcolici, e la carne rossa, fresca o insaccata, sono tra gli alimenti più nocivi per la salute. Per capirlo non c'è bisogno della Commissione europea, perché qualsiasi medico nutrizionista lo può confermare. Però l'Unione Italiana Vini e Coldiretti non ci stanno e si sono messi in azione alla ricerca di sponde politiche e cavilli ai quali aggrapparsi per ribaltare questa esclusione. In sostanza, ci sono produttori di alimenti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato dannosi alla salute, quindi cancerogeni, che pretendono sovvenzioni di denaro pubblico, cioè soldi delle nostre tasse, quei soldi che mancano per le scuole, per gli ospedali, ospedali che poi dovranno anche concorrere a curare le persone che si ammaleranno di tumore anche a causa di questi alimenti. Anche Coldiretti, quindi, non l'ha presa bene, non è mancata neppure la mitizzazione della stalla da parte di Coldiretti, che è arrivata a sostenere che la stalla va difesa in quanto tradizione secolare, perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di prodotti tipici e di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado. Bisognerebbe però chiedere un parere anche a chi in quelle stalle ci nasce, ci vive e ne esce solo per il primo e ultimo viaggio, quello verso il mattatoio. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché loro non vogliono il cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molecole malate. Nelle commissioni bilancio e affari costituzionali alla Camera, durante una seduta notturna, il governo è andato sotto 4 volte e la maggioranza si è spaccata durante l'esame delle modifiche al decreto mille proroghe. Contro il parere dell'esecutivo sono passati alcuni emendamenti, tra i quali quello sui test con animali. Quindi il governo aveva proposto 6 mesi di proroga, ma la lobby del bisturi ha colpito ancora e quindi i tempi si sono allungati di ben 3 anni. Gianluca Felicetti, il presidente dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, ha fatto notare la gravità di questo blitz, nel quale 2 commissioni, affari e bilancio, che non sono nemmeno quelle deputate all'argomento, perché la commissione deputata su questo tema sarebbe quella di ricerca e medicina, hanno imposto una proroga che per la prima volta è triennale e non annuale, e non è stato deciso un minimo finanziamento per il capitolo metodi sostitutivi di ricerca sugli animali. Quindi si usa l'argomento della mancanza di metodi alternativi per sostituire il modello animale, ma non si investe un soldo per incentivare lo sviluppo di tali metodi. Questo significa una cosa sola: si sta facendo tutto il possibile per mantenere in piedi un vecchio sistema ormai obsoleto, al quale non si vogliono in nessun modo creare delle alternative. Ciao ciao, con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Con il cuore, ciao ciao, e con le gambe, con il culo, coi miei occhi. ci piace da sempre parlare di libri. Troverete nel nostro blog le recensioni di tante opere di saggistica e narrativa, cercando nella rubrica Perle agli umani. Visto che abbiamo appena introdotto il tema della vivisezione, vogliamo parlare di un libro che affronta in modo interessante e non scontato questo argomento pesantissimo. Un argomento che si è affacciato nel mondo editoriale grazie all'autore Hans Ruesch e al suo Imperatrice Nuda, un libro, pensate, del 1976 che ha letteralmente sconvolto chi lo ha letto, creando una intera generazione di attivismo. Oggi parliamo del libro che si intitola Il caso del cane marrone, il cui autore è Peter Mason e che è uscito in Italia a fine del 2021. Ne parliamo con un ospite molto speciale, Silvia Molè, traduttrice professionista, militante antispecista, che ha curato e co-curato testi che sono stati diffusi in Italia per alimentare una prospettiva antispecista alla questione animale. Citiamo l'edizione italiana del testo di Carol Adams, La politica sessuale della carne, oppure Paura del pianeta animale, la storia nascosta della resistenza animale, di Jason Ribal, e Il caso del cane marrone di Peter Mason, del quale ci occuperemo oggi. Silvia Molè, come associazione parte in causa, cura da oltre 5 anni una rubrica antispecista su Radio Radicale ed è un'attivista sempre in prima linea quando si tratta di manifestazioni e azioni dirette antispeciste. E nonostante le bombe vicine, la fame, malgrado le mine, sul foglio lasciò parole nere di vita, guerra è finita, per sempre finita, almeno per me. Il caso del cane marrone di Peter Mason, ora pubblicato in italiano, rappresenta una interessante vicenda di convergenza delle lotte, questo nei primissimi anni del Novecento, laddove femministe, proletari, socialisti e altre categorie oppresse, in modo sistemico, presero le difese di quello che divenne di fatto un loro simbolo, il cane marrone, ucciso in un laboratorio di vivisezione, e la sua statua commemorativa. La targa apposta cominciava in modo molto provocatorio: uomini e donne d'Inghilterra, quanto dovrà durare tutto questo? Il caso scoppiò grazie a 2 studentesse svedesi femministe. Esse svilupparono un comune interesse per la scienza e nel 1900 decidono di recarsi a Parigi per visitare principalmente il famoso Istituto Pasteur, un rinomato centro di ricerca scientifica. Quello che trovarono però le sconvolse. Videro gabbie su gabbie, riempite con centinaia di animali ai quali si procuravano malattie. Si convinsero che la vivisezione, che al tempo, si badi bene, non indicava solo, come comunemente si pensa, la dissezione a scopo descrittivo, ma ogni genere di esperimento biomedico per la comprensione e lo studio delle malattie. Si convinsero che questa fosse immorale. Cominciarono quindi degli studi in fisiologia per saperne di più e decisero di trasferirsi a Londra, alla London School of Medicine for Women, dove non vi erano sperimentazioni su animali, ma era permesso alle studentesse di visitare dimostrazioni mediche con animali in altre accademie della capitale. Dopo parecchi mesi interruppero gli studi, avevano preso appunti e ne fecero un saggio. In particolare vi descrissero un esperimento di fronte a 70 studenti nel 1903, in cui un cane marrone venne alla fine ucciso. Esse affidarono il loro diario, i loro appunti, a un avvocato impegnato nella causa antivivisezionista, che ne parlò in pubblico, venendo accusato di diffamazione. Perde il processo, ma l'obiettivo è raggiunto. È successo il pandemonio, ovunque se ne parla, su ogni giornale. Poco dopo il verdetto venne eretto un monumento in onore del cane marrone. Come sede naturale del monumento si pensò a Battersea, una zona industrializzata in cui si concentravano politiche alternative. Sindacalisti, repubblicani, anticolonialisti, antischiavisti, socialismo municipale, suffragette, antivivisezionisti, insomma quella che al tempo era l'ala di sinistra, criticata dal Municipal Reform Party per le sue eccessive spese in servizi pubblici, tra cui anche la costruzione di belle case per il proletariato e un politecnico per le persone più disagiate. Dopo alcune discussioni, nonostante giunsero minacce di ogni tipo, la statua fu approvata. Fu l'inizio di una serie di duri scontri tra chi difendeva la statua e chi la voleva abbattere, rappresentando l'establishment del tempo. Il tragico epilogo si ebbe quando le elezioni municipali furono vinte da quella che era la destra del tempo. Ricordiamo che il libro in questione, Il caso del cane marrone, la storia di un monumento che ha diviso una nazione, di Peter Mason, è disponibile anche in ebook a euro 5,49. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Concludiamo con un aggiornamento sulla questione dei mufloni dell'isola del Giglio. Sull'isola purtroppo stanno procedendo le operazioni di eradicazione dei mufloni residenti nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. La notizia di una eradicazione, dal punto di vista animalista in una prospettiva evoluzionistica, è sempre una cattiva notizia, anche quando si cerca di non nuocere agli animali o comunque di ridurre al massimo il danno nei loro confronti, come in questo caso. In questi giorni i primi animali sono stati catturati e trasportati presso il centro di recupero fauna di Semproniano, in provincia di Grosseto, dove le associazioni LAV e WWF garantiranno loro cure e protezione fino alla fine della loro vita naturale. Abbiamo chiesto un aggiornamento a Kim Bizzarri, ricercatore ed attivista esperto in politiche ambientali europee, che da febbraio 2021 segue da vicino la questione dei mufloni residenti nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Sentiamo il suo punto di vista. Che dire, negli ultimi giorni abbiamo visto la LAV celebrare la cattura e rilascio di tre mufloni nel loro centro di recupero a Semproniano, ma purtroppo la situazione non è così rose e fiori come sembra. Va ricordato che sull'isola non è chiaro quanti mufloni siano presenti. Il parco inizialmente stimava che fossero tra i 25 e i 40 individui e ora invece dice potrebbero esserne addirittura 80. Noi sappiamo che finora ne hanno catturati e traslocati circa una trentina, ma non sappiamo esattamente quanti né dove siano andati tutti a finire. Sappiamo che molti di questi sono andati a un centro di recupero, anch'esso sempre a Semproniano, al CRASM. Alcuni altri sono stati portati in un altro rifugio del WWF, ma sappiamo che almeno 7 sono finiti in una riserva di caccia dove verranno ovviamente uccisi. Sappiamo inoltre che di questa trentina di mufloni che sono stati catturati e traslocati, 2 sono già morti, questo a causa dello stress delle catture e delle traslocazioni. Va sottolineato che tutta questa operazione non aveva alcun senso di esistere, poiché non sono mai state presentate le basi scientifiche sulle quali attuare un progetto di eradicazione. Non è immaginabile di andare ogni qualvolta un ente pubblico minaccia di uccidere, abbattere un animale ritenuto invasivo, andare a prenderlo e poi a spese proprie portarlo chissà dove in rifugi qua e là per l'Italia. Uno, perché questo comunque sottoscrive alla narrativa dominante che lo straniero va eliminato, ma anche perché se è stato possibile catturare e traslocare Muffone del Giglio, perché pochi numeri, appunto si parla forse di un massimo di 80 individui, questo non è il caso in tante altre situazioni. Ricordiamoci che all'Elba ci sono più di 400 muffloni presenti e 2000 cinghiali che l'ente parco dell'arcipelago toscano inizierà ad abbattere da qui a breve. Va dunque messa in discussione la narrativa che muove questi progetti e va cercata un'altra soluzione per la convivenza pacifica tra gli umani e le altre forme di vita. Pace non c'è, guerra non sopporta. Guardo la tua pace, dorme quello spirito guerriero che entro mi rugge. Per concludere la puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta che avesse in qualche modo a che fare con uno dei temi della puntata, in particolare con il tema dei mufloni dell'Isola del Giglio. Vediamo cosa ci propone. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Si ritorna al Giglio e allora vi racconto un'altra prelibatezza di questa bella isola. Una focaccia con gli ingredienti semplici ma dal sapore esplosivo. Qui proposta, come di consueto, in chiave vegetale. Gli ingredienti per una teglia di 24 cm di diametro per la pizza gigliese sono, per la pasta, 500 g di farina tipo 0, 250 ml di acqua, mezzo cucchiaino di sale, 10 g di lievito di birra e un pizzico di zucchero di canna. Per il ripieno, 2 cipolle, 100 g di passata di pomodoro, un cucchiaino di semi di lino in polvere, 20 g di capperi sotto sale, 50 ml di olio extravergine di oliva, 50 ml di brodo vegetale e sale. Sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida con un pizzico di zucchero e lasciatelo attivare per 5 minuti. Quindi impastate con i 100 g di farina tipo 0. Lavorate bene e fate riposare per 30 minuti in un luogo asciutto, coprendo con un canovaccio. Trascorso il tempo necessario, impastate con il resto dell'acqua e della farina, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e il sale. Impastate bene e lasciate riposare in un luogo asciutto, nuovamente coprendo con un canovaccio, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume, circa 2 ore. Nel frattempo preparate la farcitura. Lasciate i capperi in ammollo affinché perdano il sale. Pulite e affettate le cipolle, fatele scottare in una casseruola con un mezzo bicchiere di acqua e quando si sarà ritirata aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere. Aggiungete la passata di pomodoro e fate ritirare a fuoco lento. A parte mettete la farina di semi di lino in una casseruola, aggiungete i capperi scolati dall'acqua, 50 ml di olio extravergine e 50 ml di brodo vegetale e portate ad ebollizione lasciando ritirare per 5 minuti. Togliete dal fuoco e tritate con un frullatore ad immersione. Recuperate la pasta e dividetela in 2 palline, una 2/3 dell'altra. Stendete l'impasto più grande su una teglia e condite con la salsa alla cipolla e la salsa ai capperi. Coprite il tutto con l'altra parte di impasto e mettete in forno a 220 gradi in modalità statica per circa 15-20 minuti. Servite con un filo di olio extravergine in superficie. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 631 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.